A tempo di sport con Carlo Genta. Continuate a parlare male della Pellegrini, magari stasera va a medaglia e se ci va stia muto fino a fine Olimpiadi. Primo dal Veneto, scrive un ascoltatore via SMS, vi aspetto tutti 349-238-6666 e 800-24-0024 per le vostre telefonate. Io farò il tifo naturalmente alle 20:41 per una medaglia d'oro di Federica Pellegrini, ci mancherebbe altro. Poi vediamo come vanno queste gare. Intanto la cronaca di oggi parla delle piscine bollenti con un sacco di polemiche in chiave azzurra, innescate da Filippo Magnini, fuori Magnini, fuori Dotto, fuori la 4x200 con tempi molto alti, e Magnini l'ha buttata subito in polemica così. Cioè, non è che sono deluso, sono un po' dispiaciuto perché comunque è un peccato presentarsi alle Olimpiadi dove secondo me non so quante persone dell'Italia stanno andando bene, perché ci sono delle Olimpiadi strane un po' per tutti, anche per le altre squadre, però la staffetta alla velocità italiana ha completamente cannato la preparazione olimpica. Quali possono essere le cause, Filippo? Dovremmo parlare con gli allenatori, riguardare tutto. Io mi sono sentito durante l'anno di essermi impegnato al 100%, ma di non aver reso in allenamento come rendevo l'anno scorso, assolutamente. Quest'anno abbiamo sperimentato comunque un gruppo grosso, importante, abbiamo pensato sempre solo alle Olimpiadi, però ripeto, io sono un atleta che quando sta bene va forte, quindi non è che ho nessun rimpianto su me stesso, so di aver dato il mio massimo, però cavolo, il mio massimo questo giro era poco. Probabilmente ho pensato che stando a sentire basta l'allenatore o comunque dando fiducia al 100% come bisogna fare, andava tutto lì, però magari alla metà dovevo far capire un po' di più io le mie sensazioni a Claudio. Dunque, questo era Filippo Magnini al microfono di Dario Ricci. Ha risposto poco fa anche Claudio Rossetto, il tecnico della velocità azzurra, dicendo: siamo andati in difficoltà perché abbiamo cercato di rischiare al massimo per raschiare quello che avevamo. Rischiare significa portare i ragazzi al limite, ma a volte si può andare oltre e mettere il piede nel posto sbagliato. Filippo parla un po' troppo a caldo, lo conosciamo, le cose che dice hanno un perché, è vero che dobbiamo imparare dalle nazioni più brave, ma da anni la velocità azzurra con la stessa gestione ha sempre ottenuto ottimi risultati, non ho rimpianti sul lavoro fatto, ma su come è finito e che conta il risultato anche alle Olimpiadi, perché l'importante non è partecipare, ma essere competitivi quando puoi esserlo naturalmente. Dario Ricci a Londra, ciao Dario. Tutti da Londra, sicuramente stasera speriamo che Federica Pellegrini ci metta una pezza e una medaglia a questa spedizione azzurra che nel Water Center ha trovato non acqua cristallina ma una vera e propria palude, Carlo. Sì, Federica Pellegrini è entrata in finale con il quarto tempo nei 200 che sono un po' casa sua. Questa sera alle 20:41 scopriremo la verità, lei ha rilasciato dichiarazioni di fiducia, voglio vincere a costo di staccarmi le braccia, vediamo se ci riesce, certamente la faccia della spedizione azzurra credo sia in questo momento quella di Magnini, no? Che tu hai visto questa mattina. Direi proprio di sì, perché abbiamo visto il Magnini in acqua, quello dei momenti peggiori, perché il 19° tempo, e poi dall'altro è arrivato il titolo. La sua nascita è sicuramente l'altezza del suo blasone, e poi anche nel cosiddetto body language, quando Filippo, che comunque è personaggio sportivo loquace e trasparente, si lascia andare in queste esternazioni, vuol dire che insomma ce l'aveva dentro da tempo. Poi è chiaro che prima delle gare si fa un po' il gioco delle parti, sì. Si trova anche a dar sfoggio di muscoli, ma evidentemente queste situazioni ce l'aveva, e soprattutto il non detto fa ben capire che sicuramente tutto il lavoro fatto, al di là delle dichiarazioni di Rossetto, la gestione del gruppo, anche quanto ha detto Luca Dotto, che ha parlato proprio di un lavoro che comunque con l'arrivo di Federica nel gruppo dei velocisti è cambiato, in qualche modo è stato modificato, ecco, sono tutte crepe che credo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andranno piuttosto ad allargarsi che a chiudersi. Certamente, anche perché abbiamo anche una, la tua intervista abbiamo sentito, abbiamo anche un'intervista di Sky a caldo con Filippo Magnini in cui viene toccato proprio questo tasto, cioè Federica Pellegrini con i velocisti tutti ad allenarsi insieme e Magnini non l'ha presa benissimo. Sentiamo. Ma io penso che se siamo tutti quanti persone intelligenti e professionisti, forse questi ragionamenti bisogna fare quando le Olimpiadi sono chiuse e non a un minuto e mezzo dalla fine di un 106 libero mio. Quindi, siccome io ritengo tutte persone professionisti e intelligenti, eviterei di fare questa domanda. Così, un piccato Filippo Magnini. Altri risultati di oggi che stanno arrivando con attesa per Luigi Lodde, che alla prima Olimpiade cerca il podio nello skeet, la finale è alle 15. Fuori invece Falco, oro ad Atlanta 96 alla quinta Olimpiade, del veterano Falco, ma Lodde è entrato con buoni propositi in questa finale che immagino andrai a vedere, Dario. Sì, infatti il rumore che sentite in sottofondo è quello del pullman che ci sta portando verso il poligono delle Royal Artillery Barracks. E a proposito della finale che aspetta Lotte fra una mezz'oretta, chiediamo un parere all'amico e collega Alessandro Castellani dell'ANSA, tra le varie cose esperto anche di tiro a volo. Alessandro, allora, da Lotte all'esordio olimpico può arrivare una medaglia? Lotte è un ragazzo molto freddo e determinato che era arrivato qui convinto di fare bene e ci sta riuscendo. Per ora è quinto, però nel tiro al volo basta un nulla, un piattello per risalire posizioni, basti pensare a Falco che era quinto ieri dopo le prime eliminatorie e oggi si è piazzato undicesimo alla pari con lo sceicco del Dubai Said Al Maktoum e sono tutte e due rimasti fuori dalla finale. L'oro lo dovrebbe, penso, vincere l'americano Hancock, che lo conquistò già a Pechino. Per il resto la lotta è molto aperta e sono in corsa anche due tiratori, uno danese e uno del Qatar, che hanno tutti e due allenatore italiano, quindi l'Italia potrebbe andare comunque sul podio. Quindi tra l'altro, Alessandro, ci dicevi che proprio lo sceicco che è stato escluso e quindi è arrivato a pari merito con Falco dalla finale, anche lui è molto vicino all'Italia, allo sport italiano, vero? Sì, lo sceicco del Dubai è proprio lo sceicco vero e proprio, nipote del regnante, e l'anno scorso ha vinto in casa sua negli Emirati Arabi la finale di Coppa del Mondo. Quest'anno era desideroso di fare molto bene, però gli è andata male. È anche lo stesso che anni fa disse di essere interessato all'acquisto della Roma ed è in mezzo pure al mondo dei cavalli, dell'endurance. Lui viene ogni tanto in Umbria e in Toscana pure fanno delle gare, però soprattutto ha la passione per il tiro a volo. Insomma, quindi personaggi che grazie a Alessandro Castellani stiamo un po' scoprendo. Ecco, aspetta che Alessandro vuole aggiungere una battuta, Carlo. Sì, qua. Poi nel tiro a volo c'è anche il sultano del Brunei che gareggia, l'uomo più ricco del mondo, però sparano coi fucili d'oro. Si è qualificato per le Olimpiadi, comunque a dimostrazione che è uno sport un po' particolare, c'è anche questo personaggio. Insomma, Carlo, sport a 9-0, speriamo sì, che almeno qualcuno vincendo d'oro ci offra un caffè. Diciamo, sparano coi fucili d'oro, di platino, di chissà cosa. A proposito di nuoto, un po' di autopromozione, Federico Colbertaldo ci saluta su Twitter: siete la miglior trasmissione sportiva d'Italia, ci inginocchiamo davanti alla medaglia di bronzo mondiale di nuoto 2007 fuori da Londra per problemi alla spalla. Problemi per il nuoto, ma problemi oggi anche nell'arco che ci ha portato l'oro l'altro giorno con Frangilli e Galiazzo a casa al primo turno nell'individuale, questa ce l'aspettavamo un po' di meno. C'è il fioretto con Aspromonte che passa gli ottavi, ora è in pedana Andrea Baldini, 9-4 al termine del primo assalto, insomma magari qualcosa qui portiamo a casa. Vorrei andare con te, Dario, però rimanendo nelle piscine, su questa polemica che si è innescata sulla cinesina più veloce del mondo. Ha messo il turbo con le gambe la Ye. Passa il vantaggio la Ye. ha una chiusura a stile libero strepitosa. Ecco la passata nettamente davanti, e già quasi con tutto il tronco davanti, quasi un corpo di vantaggio per la Juve alla virata. Allunga poderosamente la cinese Shin Wenye, occhio che c'è lotta per il bronzo, attenzione al record del mondo, attenzione al record del mondo per la Shin Wenye, ormai il record del mondo è cade il primo record del mondo, 8,43, e cinesi che fanno anche una doppietta con la Lì che prende il bronzo. E Caressa di doppiette se ne intende, magari un po' meno di record del mondo di nuoto, ma questa era la sua telecronaca di questa gara dei 400 misti. Shin Wenye, 16 anni, più veloce di Phelps e Lochte, cioè nell'ultima vasca a stile ha nuotato in 28,93, mentre Lochte, Ryan Lochte, stiamo parlando di un fenomeno assoluto del nuoto, ha nuotata nella stessa disciplina in 29,10. E qui gli americani hanno messo le mani avanti, hanno cominciato a parlare di doping genetico, di qualcosa di poco chiaro in una prestazione onestamente mostruosa, caro Dario Ricci. Sì, prestazione mostruosa, addirittura i tecnici americani hanno parlato, e il riferimento non è certo velato, di tempi e cronometrici che risalgono e sono paragonabili solamente a quelli che ottenevano le Valchirie della Germania Est, e quindi questa è una sentenza praticamente sulle prestazioni della cinesina. Di fatto, fino a provetta contraria possiamo parlare di semplicemente di una prestazione mostruosa di una cinesina di 16 anni, però io i miei dubbi ce li ho, però insieme agli americani, me li tengo. Poi nei 100 rana è saltata fuori anche questa quindicenne lituana Meluitite, oro nei 100 rana appunto, fino a un mese fa non la conosceva nessuno. Va bene, Luca da Verona, avrò pietà per voi in crisi d'astinenza da calcio. Poi nella seconda parte della trasmissione preparate i telefoni, perché parleremo di patteggiamenti invece che di piscine, di questi altri argomenti che a me sinceramente divertono di più. Però anche quell'altro del patteggiamento sì, patteggiamento no, di Conte e di Bonucci, che ha creato due partiti favorevoli e contrari, ma come, Conte, se non hai fatto niente vai avanti nella tua battaglia, e dall'altra parte la Juventus sì, aspetta la tua battaglia, però potrebbe costarci un anno di squalifica per il nostro allenatore, quindi vediamo. Argomento interessante pure questo, che poi tratteremo. Intanto resto a Londra con Dario Ricci e vado a Lucca, anche in provincia di Lucca, da Ubaldo, che vuole intervenire. Sì, pronto? Pronto? Eccoci. Sì, buonasera. Buonasera. Io ho una domanda sulle Olimpiadi che poi ha a che fare con il calcio. Sì. Che differenza c'è tra un campionato del mondo, un campionato europeo e le Olimpiadi sul fatto del calcio? Che diciamo, i giornali inglesi lamentavano che i gallesi non cantano l'inno. Sì. Ma i gallesi, cioè, quando c'è un campionato del mondo, giocano nella nazione gallese. Sì, no, ma infatti è qualcosa di profondamente diverso il torneo olimpico, anche perché partecipano a Nazione Under 21 con i tre fuori quota. È stata creata questa selezione della Gran Bretagna in cui ci sono i gallesi, e poi che cantino l'inno o non lo cantino sono in fondo grosso modo problemi loro. È chiaro che questa non è la nazionale inglese, è una nazionale che non esiste, che partecipa al torneo olimpico di calcio, torneo olimpico di calcio che rimane, come sappiamo, lì sullo sfondo almeno fino alla finale, per fortuna. Dario, volevo parlare con te prima di tornare in Toscana, provincia di Grosseto, da Enrico, un altro ascoltatore, di un altro, ci sono altri casi anche divertenti come questo del sit-in di protesta della povera coreana Lam Shin, che ieri si è rifiutata di scendere dalla pedana dopo aver perso in semifinale all'ultima stoccata, all'ultimo istante, all'ultimo vantaggio con la tedesca Ederman. È rimasta lì in lacrime, seduta sulla pedana per quasi mezz'ora, e nessuno riusciva a toglierla di lì. Questa è una delle immagini delle Olimpiadi. Assolutamente, diventa una delle icone, delle icone, sì, delle Olimpiadi. tra l'altro ha riscosso l'applauso convinto di tutto il pubblico della Fencing Gold, perché l'Olimpiade è anche il posto dei buoni sentimenti sportivi, diciamo così. Questa storia ha sicuramente commosso, resta il fatto che molto probabilmente, anzi sicuramente, l'esito paradossale a dir poco di questa semifinale è stato determinato da un errore cronometrico, a cui però non c'è stata la possibilità di porre rimedio. E c'è anche il fatto che la Cina sarà forse non la prima, ma neanche l'ultima vittima del treno dell'Olimpiade. I tornei olimpici hanno questo piccolo difetto: quando partono sono un treno che difficilmente riesce a fermare con ricorsi, qualifiche, osservazioni, perché poi il tempo è dettato dalla TV e dal fatto che il 12 si deve sbaraccare. Questo è l'aspetto più concreto dei giochi e anche più paradossale sotto tanti punti di vista. Tanto ascoltatori molto attivi anche su Twitter, e vi raccomando anche di venirci a trovare su Facebook, così abbiamo un sacco di modi per interagire oltre alle telefonate 800 24 00 24, e messaggi 349 238 6666. Telefonate per l'appunto, Enrico. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io telefonavo a proposito della delusione che abbiamo avuto per quanto riguarda il nuoto, le Pellegrini. Io credo dobbiamo essere un pochino coerenti, nel senso che in un anno dove tutti i media, parlo solo di voi, ma insomma in genere, parlano soltanto di calcio e poco o niente degli altri sport, parlo del nuoto, penso allo scherma, penso che ne so, al judo, penso al tiro con l'arco. Dire delusioni, bisognerebbe essere un pochino più prudenti. Delusione sarebbe grande se l'Italia del calcio, la famosa Italia del calcio, non vincesse la medaglia d'oro. Sì. Ma per il tempo che dedichiamo... Ma Enrico, però mi sfugge una cosa, che cosa c'entra, a parte che di nuoto si parla molto, soprattutto grazie a Federica Pellegrini che ci dà molti argomenti di discussione, no? Qual è la connessione immediata e diretta tra il vincere le medaglie e il parlarne durante l'anno? Io penso che se ne parli di questi sport che sono sicuramente molto molto molto minori rispetto al grande calcio italiano ogni 4 anni, quindi diciamo che gli italiani dovrebbero essere meno delusi, perché poco danno agli altri sport. Dovrebbero essere delusi soprattutto per quanto riguarda il calcio italiano, che dovrebbe, per l'attenzione che ha sì. i media a livello nazionale, dovrebbe vincere sempre. Ma infatti sono delusi. Arriva soltanto in finale, è un successo. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? La Pellegrini è una straordinaria nuotatrice, è una delle nuotatrici più forti di sempre. Dunque, se al di là del fatto che è italiana, di tutte queste cose qui, che se ne parli, non se ne parli. Se arriva in finale, arriva quinta nei 400, insomma, ne parliamo, ma a ragion veduta. Cioè, la Pellegrini è una straordinaria sportiva, è un fenomeno mediatico, non è che perché non si parla tutti i giorni di nuoto dobbiamo essere meno delusi e fregarcene perché una nostra campionessa non riesce a raggiungere il massimo che è nelle sue possibilità. Mi sembra un discorso un po' bizzarro, tant'è vero che insomma raccolgo molti commenti anche piuttosto buonisti come il suo, come quelli di molti altri: ah, ma ha fatto comunque una grande gara, ah, ma comunque molti commenti decubertiani. Ieri ho detto che insomma, se la nazionale di calcio va fuori agli ottavi di finale di un mondiale, gli facciamo un mazzo così, mentre qui bisogna fare i bravi e dire che sono comunque degli straordinari sportivi lo stesso. No, secondo me è coerente anche avere ed è salutare per questi sport avere un raffronto critico, almeno questo è il mio pensiero. Dario, tornerei su altri temi che escono dalle Olimpiadi, come ad esempio la crisi inglese dopo Cavendish. Ha steccato anche il ragazzino dei tuffi Daly, adesso dicono che è colpa di Cameron che porta gramo. Oddio, questo è tutto da verificare. Insomma, è chiaro che il politico che arriva alla finale rischia sempre del suo, perché sarebbe prudente nei primi turni, se posso dare un suggerimento, no? Perché comunque lì i rischi sono minori. Se tu ti presenti solamente alla finale e poi l'atleta per cui fa il tifo sbaglia, eccolo lì che un pochino diciamo, cioè, è anche colpa tua. Detto questo, l'Inghilterra chiaramente festeggiava oggi il bronzo nella ginnastica a squadre uomini, un bronzo storico, e quindi la BBC faceva gran cassa di questo bronzo. Anche il bronzo dell'Arlington nei 400 è stato accolto con favore, quindi l'Inghilterra tutto sommato una Gran Bretagna benevola nei confronti dei suoi campioni, che pure inevitabilmente hanno steccato, anche se poi Tom Daly, che è un po' uno dei simboli di questa Olimpiade, avrà ora la gara individuale per rifarsi, perché chiaramente l'errore è arrivato e quindi il podio è sfuggito nella piattaforma del 10 metri sincro, quindi tutto sommato c'è ancora margine per rifarsi. E non dimentichiamo che Daly, che è veramente ancora un ragazzino, arriva dall'anno forse più difficile della sua vita, perché ha perso il papà certo. È stata una storia lunga, che ha molto appassionato anche gli inglesi. Attenzione, Carrambata, abbiamo letto un suo tweet di prima con grande piacere. Federico Colbertaldo invece ci ha chiamato e lo accogliamo con tutti gli onori. Bronzo mondiale 2007, 800 stile libero, la spalla fa il capriccio, alle Olimpiadi non sei andato, come valuti? Ciao Federico, grazie. Ciao, buongiorno. Tutte queste polemiche, acqua bollente, non sembra neanche le piscine, sembra il Tamigi. Eh sì, purtroppo, però ti dico, per la prima volta le vedo da casa, le vedo da telespettatore, e fa anche piacere sentir parlare così tanto di nuoto, e comunque cerco di vivere una dimensione nuova, ecco. Ma qual è la tua opinione su come stiamo andando? Cioè, c'è questa polemica di Magnini, cioè Federica, che stasera si gioca tutto sui 200 stile libero. Sì, diciamo che la situazione è molto delicata per quanto riguarda Federica. Il fatto è che il nuoto, a differenza anche del telespettatore che diceva prima, non è il calcio, infatti, e non c'entra niente, secondo me, almeno quanto se ne parli o quanto poco se ne parli. È più un discorso che il nuoto ti dà quello che tu prepari, quello che costruisci giorno per giorno. Purtroppo la Federica ha avuto un paio di stagioni travagliate, a mio modo di vedere ha avuto troppi cambi di allenatori, sicuramente non è riuscita a preparare nella maniera più tranquilla. In questo non c'entra niente con quanto si è insuinato, degli amori, delle partecipazioni televisive, perché quelle vanno a influire un giorno su 365, quindi alla fin fine quello c'entra poco. C'entra che magari cambi di allenamento costanti possono, in serie, possono portare a una condizione di forma non è ottimale. Se a questo ci aggiungiamo che il livello medio mondiale nell'anno olimpico è sempre 10 volte tanto gli anni precedenti, ci sta presto a dire che al minimo errore può succedere di andare fuori dal podio. Senti, ma però questa, certo, prima di darla finita aspettiamo un attimo, anche se io credo che la gara di stasera, insomma, dirà molto anche a lei stessa sulle sue decisioni, sul suo futuro, perché adesso non è chiarissimo che cosa voglia fare, ha bisogno di fermarsi, di riposarsi, e questo può essere sacrosanto. Ma io, però, da quanto ho capito, lei intenzione di fermarsi, ma nel senso di dare un po' una rallentata agli impegni agonistici prestati, certo. non di fermare l'attività, perché da quanto ho capito vorrà comunque anche partecipare ai mondiali l'anno prossimo, vuole semplicemente evitare di fare gare che purtroppo richiedono anche un impegno psicofisico eccessivo e che dopo 10 anni di vertice possono costare caro. Antonio Fioretto maschile si fa strada, dopo Aspromonte anche Baldini conquista gli ottavi, ora è in pedana la nostra punta di diamante, cioè Andrea Cassarà. Marco da Verona, grazie dell'attesa. Grazie a voi. Io volevo cambiare decisamente argomento, almeno non so se l'avete tra già affrontato. Tra poco anch'io. Ok, io volevo parlare volevo sapere quelle che erano le sue impressioni. Mi interessava sapere sul torneo olimpico di basket che si sta svolgendo adesso, che ha già, nella prima giornata, secondo me, ha già offerto degli spunti interessanti. Adesso io seguo particolarmente perché il cuore richiama i colori dell'Albi Celeste, per cui per me qualsiasi torneo dove ci sia l'Argentina, per me di solito sono sempre dolori, perché c'è sempre da piangere, però ma è una passione che io condivido per quei colori, lo so, infatti c'eravamo già sentiti per la pietosa figura dell'Argentina con la Coppa America lì a Buenos Aires, e lì vabbè stendiamo un velo pietoso, sì. striscia che è continuata con la mancata qualificazione nel torneo olimpico, che sì, è tutto dire sulla situazione del calcio argentino. Abbiamo un sacco di veri da stendere, ci serve un camion anche qui, non un camion di maglioni, ma un camion di veri pietosi da stendere sull'Argentina. Sì, sì, sì, sulle spedizioni argentine. Che vorrei che le dica, il torneo di basket finora l'ho seguito onestamente piuttosto poco, ma anche perché mi sa di qualcosa di, anzi mi sa, è certamente qualcosa di già scritto, quindi si tratta solo di capire quale potrà essere la sparring partner degli Stati Uniti in finale. Io continuo a puntare sulla Spagna, che tra l'altro poco fa ha battuto l'Australia 80-72, ma è ancora presto, è ancora l'alba per questo torneo. La parte divertente comincia agli ottavi. C'è chi domanda Ermanno via SMS: Berlusconi finalmente ha parlato, chiarimenti che i tifosi attendevano, meglio tardi che mai. Berlusconi ha parlato dicendo: dobbiamo guardare al microfono di Milan Channel, dobbiamo guardare al Milan del presente, che è forte, con un quintetto di campioni che nessuno annovera, Pato, Robinho, Boateng, che vedo da centravanti, dice Berlusconi. Se lo vede da centravanti, lo vedremo, magari lo vedremo anche noi. Se lo vede lui, magari lo vedremo anche noi da centravanti. In campo, intendo. E Sharawi e Cassano, che più giovanissimo non è. Comunque, su Ibrahimovic e Thiago Silva non volevamo venderli entrambi. Inizialmente avevamo detto di no, poi il Paris Saint-Germain ha spinto e non potevamo rifiutare quelle cifre perché hanno messo in sicurezza i conti del Milan. Il cuore mi piangeva, ma trattenere Thiago Silva e Ibra anche in chiave fair play finanziario non sarebbe stato possibile. Ci sono stati tanti addii imposti, come anche per Seedorf, aggiungo Pirlo. Comunque non sentiremo la mancanza di Ibrahimovic e abbiamo fiducia in Acerbi per la difesa. Auguri a tutti i milanisti. Berlusconi la vede bene, io il Milan magari con Boateng centravanti un po' meno. Intanto happy birthday Mr. Antonio Conte, oggi compie 43 anni, credo sia un compleanno, gli auguro molto felice, ma non tra i più sereni della sua vita. Qualche tempo fa aveva parlato così: ho sempre dimostrato integrità, morale, onestà, correttezza in tutte le situazioni, sia da calciatore che da tecnico. Col Siena abbiamo vinto un campionato l'anno scorso con 3 giornate d'anticipo, con grande sacrificio, grande sudore, grandi lacrime e grandi soddisfazioni. Ribadisco la mia assoluta estraneità a qualsiasi tipo di fatto, mia e dei miei calciatori. Sono stato indagato, no? Per associazione a delinquere. Ho avuto una perquisizione in casa e io non c'ero neanche. Ho letto il provvedimento, ho visto le poche parole scritte. La prima domanda che mi è sorta, sapete qual è? Come mai non sono stato chiamato dal PM di Cremona prima di subire una perquisizione e prima di subire comunque di diventare un indagato? Penso di aver detto tutto. Buone vacanze a tutti, perché le mie saranno buone vacanze sicuramente. Erano vacanze, poi sono finite, adesso si è tornati a lavorare per Conte, per i giudici, e adesso questa richiesta di patteggiamento. Io ho due ospiti che la pensano in modo opposto su questo argomento. Il primo è Claudio Zugliani, giornalista di Mediaset Premium. Ciao Claudio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. E l'altro, Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano e scrittore. Dunque, patteggiamento sì, patteggiamento no. Io partirei dal no con Andrea Scanzi. Ciao Andrea. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Il mio è un no molto semplice, cioè potrei dirla brevemente così: se io sono sicuro di essere innocente e strano ai fatti, non patteggio mai, ma mai nella vita. È vero che la giustizia sportiva non è la giustizia ordinaria, è vero che la giustizia sportiva, semplificando, è colpevolista e quella ordinaria è innocentista. Sì. Dopodiché, se io sono convinto di essere totalmente strano ai fatti, non lo faccio mai il patteggiamento, ancor più nel caso di Conte, perché Conte temeva un deferimento per illecito, c'è stata soltanto tra virgolette l'omessa denuncia, in 2 casi, 7 mesi rischiava, tutto questo patteggiamento per risparmiare 3 mesi e 20 giorni, con un esborso di 200.000 euro che mi fa anche piacere perché andrà ai terremotati. Siamo sicuri per Conte che gli convenga, in cambio di uno sconto di 3 mesi e 20 giorni, passare per colui che ha patteggiato, che non è l'ammissione di colpa, ma come ha scritto anche sul Corriere della Sera Pigi Battista, che non è esattamente un pass the run, all'ammissione di colpa somiglia tantissimo. È una domanda che ti pongo. Ecco, parti da un distinguo, no? Dalle peculiarità della giustizia sportiva. Allora arriva la Juventus e ti dice: senti, la giustizia sportiva è così e lo sappiamo. facciamola breve, stare 7 mesi, 8 mesi, magari anche un anno senza allenatore per noi è un danno, è un problema, è un casino. Dunque patteggiamo, la finiamo lì e facciamo una mossa che può essere conveniente anche se non elegante. Claudio Zuliani. Mi sembra che tu abbia descritto la situazione reale. Io capisco tutto, perché poi quello che passa a casa ai tifosi in un periodo ormai troppo lungo, direi, in cui l'informazione è molto fruibile in maniera diciamo rapida, no? Tramite i social, per cui basta un titolo che si è capito tutto, in realtà non si è capito niente. Il messaggio che passa è quello, cioè il tifoso normale è inviperito perché dice: ma come, Antonio Conte, il comandante, il condottiero, la guerra, la lotta, sono in 200 patteggia. Però gli andrebbe spiegata meglio, e cioè la giustizia sportiva, come dicevate giustamente prima, purtroppo, spero che un giorno la cambieremo, si basa sull'esatto contrario di quello che è il procedimento penale, dove tu sei innocente fino a prova contraria, qua sei colpevole fino a prova contraria, non puoi neanche difenderti, quindi mi sembra assolutamente una cosa arcaica. Il problema che bisogna spiegare a casa è che non è che Conte fa il patteggiamento normale, fa il patteggiamento secco con l'articolo 23, che presuppone il fatto che tu non ammetti un bel niente e addirittura la tua fedina pedale è pulita e non sei in recidiva. Cioè, tanto per capirci, cioè, come se tu hai lo stadio diffidato e la volta dopo non ti succede niente perché la diffida non vale. Quindi in sostanza è andata così, la Juventus ha detto a Conte: caro mio Antonio Conte, siccome tu vai con un deferimento che praticamente l'abbiamo visto nella storia della giustizia sportiva, è una condanna, perché non esiste il dibattimento sportivo, il dibattimento sugli interrogatori di Palazzo, una volta che lui ti deferisce, tu sei finito, non c'è proprio nessuna possibilità. Quindi ti conviene comunque andare, beccarti un anno e mezzo, e comunque tu per la gente sei colpevole, non ti conviene pigliare 2 mesi, il 1 novembre sei già in panchina? Risponde Andrea Scanzi. Rispondo dicendo che è sicuramente una scelta molto conveniente da un punto di vista concreto, e se alla Juventus interessa la concretezza siamo tutti d'accordo, perché Antonio Conte 1 novembre, 10 novembre tornerà in panchina, quindi bravissimi. Ma tu ci credi che non esista questa macchia, Andrea? No, non sono particolarmente convinto. A me sembra che Antonio Conte sia ciclicamente, come dire, sfiorato da scandali grandi o piccoli, dal caso Gea a queste due omesse denuncia. È ovvio che sono sensazioni, è ovvio che non c'è la, ha ragione lui, quindi sicuramente innocente. Dopodiché la macchia un po' per me rimane, è proprio per questo che io facevo il discorso che ho fatto prima. Ok, rischiava 7 mesi, forse un anno, però proprio perché la Juventus, grazie allo scudetto fortemente voluto e conquistato anzitutto da Antonio Conte quest'anno, era risalita anche come immagine, come la squadra delle battaglie, delle vittorie contro squadre molto più potenti come il Milan, aveva in qualche modo anche offuscato il brutto ricordo di Calciopoli. A me sembra, e i tifosi della Juventus inviperiti in larga parte, non nella totalità, ma in larga parte, lo dimostra questa rabbia, mi sembra che questa decisione sia molto concreta, sia molto utile. Sì. Da novembre ci sarà il nuovo condottiero, non mi sembra che come idea morale, come immagine finale sia positiva, ma anzitutto per Conte, perché quelli che lo ritenevano colpevole ancora di più lo riteranno colpevole dopo questa ammissione, che non è un'ammissione ma passa in larga parte per ammissione. Ma infatti io mi rivolgo a Claudio Zuliani, io credo che Conte non sia felice di questa soluzione. Ragazzi, questo è quello che facciamo passare noi, perché vedi, se tu nel momento stesso in cui dici la Juventus è sempre la Juventus fiorata da cosa, da quale macchia, sempre scandali a destra e a sinistra, Conte non c'ha nessuno scandalo a destra e a sinistra. Conte in questo momento viene accusato intanto di un'omessa denuncia sportiva, e già a casa sta passando come una cosa da galera. Io ho gente che mi scrive: se patteggia vuol dire che è colpevole, che è un ladro, vedi tu, vuol dire che non hanno capito niente, qua parliamo di omessa denuncia, neanche di illecito. Sì. Dopodiché parliamo di un procedimento un po' strano, in cui, ti ripeto, nella fase di interrogatorio uno porta 23 testimoni che dicono il contrario del pentito, ma se il procuratore ritiene credibile il pentito tu puoi fare quello che vuoi, che sei colpevole. Quindi non è problema delle macchie, il problema è che la macchia ci sarà sempre, perché una volta che uno ti deferisce nella giustizia sportiva tu ce l'hai, e Calciopoli purtroppo ce l'ha insegnato, perché lo stesso procuratore Palazzi, perché non è che adesso Palazzi lo dobbiamo reputare bravo se fa una cosa pro la tua squadra e cattivo il contrario. Tra l'altro c'è stata quella storia dell'aggressione, avete notizie? Sì, che mi sembra un po' una bufala a me, comunque vabbè, ci parla. Cioè, oramai pubblichiamo qualsiasi cosa, va bene tutto. Cioè, io passo per strada, uno mi urla una cosa, diventa aggressione, sì. Cose, insomma, ragazzi, stiamo veramente sfiorando il ridicolo. Io rimango sui fatti concreti. Antonio Conte, che è uno che vuole giocare a carte con la figlia e vincere, anche se c'ha 2 anni, è quello, messo di fronte alla realtà dei fatti, penso che ognuno di noi, se facciamo il famoso gioco dello scambio di ruoli, tanto no? Vicino agli psichiatri e agli psicanalisti, messo nelle sue condizioni, la società con cui hai vinto lo scudetto ti dice non c'è possibilità, abbiamo parlato con gli avvocati, non c'è niente da fare, anche se tu ti ritieni innocente, patteggia, fra due mesi torni in panchina, non cambia niente se va avanti, perché se va avanti perde 6 anni della sua vita e 1 anno di allenamento e la macchia è uguale per la gente, non cambia niente. Allora andiamo su Bonucci e su questo illecito sportivo. Andrea Scanzi, cambia la tua posizione su questo punto oppure no? Ma sai, lì più che altro è molto più difficile il patteggiamento, perché si parla di un illecito consumato con il cinese Bari, quindi la situazione mi sembra molto più preoccupante per quanto riguarda Bonucci. Vedremo cosa deciderà, io credo che in qualche modo dovrà accettarlo questo dibattimento, ammesso che poi esista o meno nella giustizia sportiva. La cosa che mi fa sorridere è che quando era stato tolto dalla lista dei convocati Crisci, che eravamo più o meno tutti d'accordo, Bonucci ci è andato alla fine agli europei, se doveva esserci un'operazione pulizia, un'operazione moralità, in quel senso Prandelli ha sbagliato, a fronte anche di un grande europeo. Alla luce dei fatti non credo che sia stata una grande idea. Mi limito solo ad aggiungere sul discorso di Antonio Conte, è verissimo quello che è stato detto adesso dal mio collega, io però qualche libro me lo sono letto, anche non soltanto quelli istituzionali, ma anche i libri che non circolano tra i giornalisti sportivi, i libri ad esempio di un certo Carlo Petrini me li sono letti più o meno tutti, non è che lui fosse la Bibbia o il Vangelo, mi limito a dire che da quei libri Antonio Conte non appariva esattamente un modello di virtù, quindi poi possiamo anche far passare l'idea dell'allenatore immacolato che gioca a carte e vuol vincere anche con la figlia. Però da quelle pagine, che non mi risulta siano mai state querelate o smentite particolarmente, non emergeva la figura esattamente di un idolo di moralità. Tutto qua. Vuoi rispondere, Claudio? No, mettiamolo direttamente in galera senza passare dal via, così facciamo passare questa immagine e siamo tutti contenti, dai. Grazie a tutte e due. Ho letto anch'io comunque di libri, non di Carlo Petrini, dove c'era dentro tutto il calcio italiano, comprese le squadre di Milano. Se ci vogliamo basare sui libri di tutti, facciamo notte. Quando vuoi, mi telefoni quando vuoi. Quando vuoi, se li leggiamo insieme ci siamo due risate. Allora facciamo una cosa, troviamoci qui pubblicamente. No? Dai, troviamoci qui pubblicamente e allora ognuno porta il passo che vuole e li commentiamo con grande... No? Cioè, limitiamoci ai fatti, non mandiamo a casa la gente dei messaggi un po' distorti, perché sennò lo possiamo fare su tutti. Tutti, su chiunque, su noi stessi, su tutti quanti. Non c'è sì. Claudio, però la posizione di Bonucci invece? La posizione di Bonucci non è felice. Bonucci è stato comunque convocato in nazionale, perché forse la gente non lo sa, ma non è nel registro degli indagati di Bari, della procura penale, cioè quella più seria, non era neanche negli indagati, ma solo come persona informata dei fatti. Invece si becca un illecito sportivo come deferimento, quello ovviamente è pesante, quindi a quel punto lì non è questione di convenienza patteggiare o no. Io non so gli avvocati di Bonucci come pensano di uscirne bene, con che armi, da un dibattimento dove non puoi portare prove a tuo carico e vedere in faccia chi ti accusa. Però probabilmente lui non patteggerà e provare ad andare fino alla fine, però lui rischia veramente pesante. Rischia pesantissimo. Sì. Claudio Zugliani e Andrea Scanzi, vi ringrazio molto e vi aspetto qui alla prossima con ognuno con il libro che vuole, con il passo che vuole e poi a palla agli ascoltatori e ci divertiamo un po'. Grazie ad entrambi, grazie. Luca da Milano, Sergio da Milano, ascoltatori 800 24 00 24, numero verde. A Luca. Sì, buongiorno, salve. Io volevo intervenire sul discorso di Antonio Conte, un po' anche del calcio scommesse. Effettivamente mettiamoci nei suoi panni e nei panni della Juve, a lui conviene patteggiare, perché comunque lui ha portato delle testimonianze a suo favore, ma non sono state ascoltate del tutto. Infatti secondo me era molto interessante e intelligente l'articolo che ha fatto il signor Beccantini, dove diceva che poi il signor Palazzi si è comportato un po' come Ponzio Pilato, perché allora o Conte è colpevole e quindi allora deve deferire anche tutti i testimoni e tutti i presenti a quella riunione tecnica, quindi anche gli altri giocatori del Siena, o se no Conte non è colpevole e allora Carobbio non è del tutto ma è caduta l'accusa di quel discorso a tutta la squadra, perché altrimenti sarebbe stato illecito sportivo anche in quel caso. Quella storia a me è sempre sembrata molto bizzarra. Io trovo che in questa vicenda del calcio scommesse quest'anno come l'altro anno ci siano soggetti che possono essere credibili almeno in parte, ci siano voli di fantasia, ci siano conti da far pagare magari anche a Conte, ci siano millanterie, ci sia dentro un po' di tutto questo. Non dimentichiamo che nel processo sportivo vige l'inversione dell'onere della prova, e quindi che sia, che questo patteggiamento per Conte sia e per la Juventus sia conveniente, non vi è alcun dubbio. Che Conte sia felice di patteggiare, io non credo, anche se magari non lo dichiarerà, è una soluzione che alla Juventus e a Conte stesso conviene, perché tre mesi sono nulla. Io non credo che questa macchia venga cancellata, lavata o dimenticata, questo no. Sergio. Buongiorno Carlo. Buongiorno Sergio. Io mi stancherei un attimo da queste pagine edificanti rappresentate da deferimenti, sì, e quant'altro. Tornerei invece sulle polemiche o presunte tali dei riguardanti la Pellegrini e company. Mm. Io credo che ci sia francamente un deficit di informazione e anche di preparazione da parte dei giornalisti in primis e quindi in secundis di noi che le seguiamo queste gare. Cioè la Pellegrini era evidentemente in uno stato di forma che, come diceva col Bertaldo, assolutamente inappropriato a, sì, vincere 400 come a vincere i 200. Io spero di sbagliarmi. No, lei non sbaglia, ma questo l'ha detto anche il suo mental coach, no? Che noi abbiamo provato ad interpellare ieri proprio per capire se potevano esserci problemi psicologici. Lui ha detto no, Federica dal punto di vista mentale è totalmente a posto, è a pezzi fisicamente, quindi che sia arrivata in una condizione non idonea ad esprimere tutto il talento che ha, tutte le sue potenzialità, mi sembra indiscutibile. Si tratta a questo punto di capire il perché, di capire quali siano le ragioni, no? Pochissimo, qualche addetto ai lavori era già certo delle performance della Pellegrini. È chiaro, e qui lo dico assolutamente col sorriso sulle labbra, che se poi a commentare la Pellegrini ci mettiamo il buon Caressa. Il buon Caressa. Ma Caressa che c'è? Ma che c'entra? Che c'entra? Perché Caressa non può mai immaginare di conoscere il percorso d'allenamenti e di performance della Pellegrini, sì, negli ultimi due anni. Vabbè, ma la verità è quella che disegna in vasca Federica, non è quella che racconta Caressa. Caressa fa il telecronista. Mi sembrano due argomenti che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, Sergio, mi perdoni. Cioè, la telecronaca di Caressa con le prestazioni sottotono dei nostri nuotatori, mi sembra che c'entri nulla, no? Cioè che sia Caressa come tale, possiamo guardarlo sulla Rai, ma le prestazioni non è che cambiano, non è che se le guardiamo sulla Rai la Pellegrini vince. Il discorso è che i nostri nuotatori sono arrivati a queste Olimpiadi sulla scorta di una preparazione sbagliata, e io stasera farò il tifo con la bandiera per Federica Pellegrini, ma non sono granché ottimista. Poi è chiaro che lei, giocando su questa sua sovraesposizione mediatica, può attirarsi critiche o antipatie che non sono soltanto sportive o che comunque non possono essere lette soltanto in chiave sportiva, perché quanta gente c'è in giro, siamo onesti, a dire la superstar, la prima donna, quella che va in TV, quella che mette in piazza i suoi amori, quella che compare sulle copertine di tutti i giornali, rilascia 1000 interviste e adesso non pensa più al nuoto, normale che faccia di queste figure. Poi magari la verità è un'altra, però molti la pensano così ed è inutile nasconderlo. Nando, provincia di Chieti. Buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Io la seguo volentieri tutti i giorni. Molto bene. Programma. Allora io mi permetto di ritornare sull'argomento dell'illecito sportivo, patteggiamento, ma lo faccio con uno spirito critico nei confronti del mondo juventino. Cioè non è possibile che ogni volta che si mette in discussione la società Juventus o attraverso Calciopoli o attraverso gli ultimi avvenimenti c'è un sollevamento del popolo juventino nei confronti di tutti. Comincia a scagliare pietre su tutti, non a caso prima la risposta che ha dato il cronista talebano juventino, che sul giornalista di Milano, che dice ma andiamo a vedere su Milano, non mi sembra il modo di rispondere su delle accuse che è vero che vanno dimostrate, ma che dimostrano che questa società poi non è così angelica. No, allora l'angelica non conta. Se Conte ha commesso un reato sportivo, se si è reso colpevole di omessa denuncia, lo ha fatto non con la Juventus. Conte adesso è allenatore della Juventus, semmai la Juventus è parte lesa, se vogliamo, tra molte virgolette, da questa squalifica che pioverà su Conte e più pesantemente su Bonucci. E i fatti sono questi: che la Juventus sia tirata in mezzo in questa storia in maniera collaterale è evidente a tutti. Adesso non mescoliamo le carte. Allora, Conte ha commesso quanto ha commesso, questa omessa denuncia, quando allenava al Siena, poi è andato alla Juventus, ci sono state le indagini e adesso si arriva per convenienza, su richiesta della Juventus, e non ci piove, ad un patteggiamento che priverà il club del suo allenatore per un periodo abbastanza risibile di tempo. Quindi questo tirare in mezzo tutti quanti, io non lo vedo Nando. La vicenda è questa, mi sembra molto semplice e molto chiara, anche se abbastanza puzzolente. Certo. No, ma la mia critica è sul mondo juventino, la stampa juventina. Il mondo juventino, la stampa juventina. Ripetitiva ogni volta. Cioè, ci sono anche club che si sono trovati in casa dei giocatori, mi viene in mente Bertani, ma ce ne sono molti altri, dei giocatori che hanno preso pagato e che adesso si trovano sul collo delle accuse molto pesanti e che per reati sportivi non commessi con la maglia di quel club. Dunque è chiaro che la Juventus fa più rumore, però la situazione che si è venuta a delineare è questa. Dobbiamo fermarci, ma domani riprendiamo. Intanto Berlusconi non compra Kakà, lo ha escluso. Non ho approfondito l'argomento con Galliani, Kakà è nei nostri cuori, per il giocatore, per l'uomo che è, non chiudo una possibilità di questo genere, anche se bisogna vedere attentamente le condizioni. È uno di quei giocatori che ha segnato la storia del Milan, insomma, dice che Kakà non arriva, lo vedremo. Grazie a Franco Piantaneda in redazione, a Mauro Comes in regia, ci sentiamo domani alle 2:00.